ゲッター、 ブラボ ー。Adesso senza farla troppo lunga vi spiego anche in due parole perché io non sono, vi spiego adesso in poche parole anche perché sono molto convinto e sono qui per ringraziarvi, non per chiedervi qualche cosa. Io non ho partito, sono un deputato indipendente, più o meno sapete come la penso, forse mi avete sentito parlare. Sono venuto qui per ringraziarvi perché sono convinto che quello che state chiedendo voi è di molto più grande importanza che non i problemi della Val di Susa. Questo è un problema che riguarda tutti noi, che riguarda tutta l'Italia, che riguarda l'Europa, che riguarda il mondo. Perché, vi spiego cosa penso, io penso che questo progetto non abbia nessuna ragione di sopravvivere, perché ci dice che questa gente che l'ha fatto vuole portare il pianeta intero, tutto il pianeta, non l'Europa, verso un disastro assolutamente ormai inevitabile se non si cambia il tipo di sviluppo. Questa gente ha fatto i calcoli sui milioni di tonnellate che devono passare attraverso questa valle, senza calcolare che lo sviluppo del mondo non può più andare avanti come è andato avanti in questi ultimi 20 anni. Noi stiamo distruggendo il nostro pianeta, la nostra natura, l'aria che respiriamo. Noi abbiamo costruito un sistema economico che non ci garantisce affatto che i nostri figli, i nostri nipoti potranno vivere, mangiare, respirare e bere. Noi stiamo distruggendo tutto. Allora, io sono convinto, e non è un'opinione soltanto, perché è fondata sulle cifre, che questo tipo di sviluppo è finito, che noi non possiamo continuare a misurare lo sviluppo delle nostre società sulla base del prodotto interno lordo, perché non funziona più, perché non abbiamo più risorse per tutto, perché fra 20 anni non ci sarà più benzina. E allora non possono costruirci un'opera che ci dice che fra 20 anni ci saranno altri 200 milioni di tonnellate di merci che si muoveranno, perché non è vero. E quindi loro ci stanno chiedendo di spendere miliardi. E lo dico con una certa dose di angoscia, è per questo che sono qui per ringraziarvi. Lo dico perché io vorrei che le forze politiche di questo paese, sinistra e destra, avessero il coraggio di dirci la verità. Quest'opera ci dice che non solo non hanno il coraggio di dirci la verità, che vogliono andare avanti ancora peggio sulla vecchia strada che ci porta al disastro. Allora voi questo state facendo, e in questo senso io personalmente mi sento di impegnare la mia battaglia in Europa e qui, e tornerò dopo Hong Kong a parlare e vedere a che situazione siamo arrivati. Voi state aprendo una pagina nuova nella politica di questo paese, dell'Italia intera, perché voi state sollevando un grande problema del nostro futuro, non il problema della Val di Susa, siatene consapevoli. Voi state aprendo un capitolo nuovo, su questo capitolo tutta l'Italia deve venire, e io credo che questo sia l'augurio migliore che posso farvi. Sono anche convinto che su questa cosa voi vincerete, perché